Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani, oggi è giovedì 30 dicembre, Salva Danaio speciale, e anche oggi queste puntate particolari nella settimana a cavallo fra Natale e Capodanno vi stiamo proponendo i temi che vi stanno più a cuore. E se c'è un argomento che non stanca mai i nostri ascoltatori è quello del mutuo. Il mutuo sulla casa che non pochi grattacapi ha dato alla collettività, prima perché, lo ricorderete, ha schizzati i tassi di interesse, sono esplose le rate dei mutui a tasso variabile, questo accadeva nella fase acuta della crisi recente nell'autunno del 2008 e per larga parte appunto del 2009. E poi cosa è successo? Che ovviamente è arrivata la crisi sull'economia reale, si sono persi molti posti di lavoro e quindi pagare anche una pur minima e ragionevole rata è diventato difficile per molti nuclei familiari. Anche perché non solo questa è l'unica scadenza mensile delle famiglie, che hanno la spesa, le bollette e magari altri prestiti in corso. Quindi, primo tema da ricordare, proseguono le iniziative di sistema per alleviare le famiglie che al momento non riescono a rimborsare la rata. Eppure, paradossalmente, come spiegava qualche settimana fa il 29esimo rapporto Assofin CRIF Prometeia, veniva descritto in questo rapporto un quadro complessivamente non propriamente brillante per tutto il settore del credito al consumo, e però evidenziava una voce in controtendenza, cioè una ripresa delle erogazioni dei mutui appunto a famiglie che stanno adesso acquistando la loro casa. E quindi oggi cosa facciamo a Salva Danaio? Un punto sulle 2010 dei mutui e ripercorriamo questo anno per quello che riguarda questo importantissimo settore per l'economia italiana, con un ospite molto affezionato a Salva Danaio, per fortuna nostra, Roberto Anedda, direttore marketing di Mutui Online, che è il più grande broker appunto del settore. Roberto, ciao, bentornato. Grazie Deborah, ben ritrovata, ben ritrovati agli ascoltatori. È sicuramente una delle professionalità più autorevoli e più ascoltate appunto per quello che riguarda il settore del credito alle famiglie per l'acquisto della casa. E allora, il tema è molto interessante, di cose da raccontare su come è andato quest'anno, forse un po' più sereno per certi versi rispetto agli ultimi tre. Roberto, hai portato il tuo osservatorio, il vostro bollettino, che ci racconta un po' quella che è stata la tendenza di questo settore nei primi 11 mesi di quest'anno, mi viene da dire. Quindi complessivamente abbiamo già quasi un quadro che ci descrive quello che è stato questo mercato nel 2010. Un anno soddisfacente oppure, insomma, si poteva fare meglio? La crisi ha continuato a mordere anche sul credito immobiliare. Sì, diciamo che ormai siamo al 30 dicembre, quindi possiamo parlare di 364 giorni su 365. Effettivamente, come dicevi giustamente tu poco fa, è stato un anno migliore rispetto ai due precedenti, soprattutto il 2008 e il 2009 per i mutui. E sono stati degli anni di sofferenza, sia perché sono calate le erogazioni rispetto agli anni precedenti, si è sentito mordere soprattutto nel 2008 l'aumento dei tassi che ha creato tutti i problemi che tu ricordavi prima. Il 2009, ma soprattutto il 2010, ha invece beneficiato del forte calo dei tassi di interesse, quindi questo non solo ha portato sollievo a chi già aveva un mutuo a tasso variabile in corso, quindi portandolo a pagare in questo caso rate bassissime, addirittura più basse rispetto a quelle ai quali il mutuo era partito in qualunque momento, perché proprio nel 2010 si sono registrati i minimi storici di sempre dell'Euribor, che è l'indice con il quale viene calcolato il tasso variabile dei mutui. Ma è stato interessante perché questa maggiore tranquillità sul mercato del costo del denaro e quindi questi tassi così bassi a un livello prolungato hanno man mano riavvicinato alcune fasce di consumatori a questo prodotto, quindi anche all'acquisto casa, ma soprattutto hanno aperto le porte sempre più al cambio mutuo a condizioni favorevoli, quindi tramite la surroga che è partita nel 2007 ma solo nel 2009 è entrata veramente a regime, e con dei tassi così bassi e per un periodo così lungo tante famiglie hanno effettivamente potuto trovare l'opportunità di cambiare un mutuo già in essere, magari anche molto vecchio, anche di 10 anni, a condizioni sicuramente molto più convenienti, e quindi potendo alla fine risparmiare anche notevolmente sulle rate che fino a quel momento stavano pagando, o comunque ristrutturare il peso del mutuo sul proprio bilancio familiare mensile in maniera molto più sostenibile. Tra l'altro ti interrompo già, tutte le criticità legate alla portabilità, questo meccanismo di trasferimento per la ricerca appunto di un mutuo migliore, sicuramente si sono andate notevolmente ridimensionando, oggi non sembra più essere un problema all'ordine del giorno, davvero ci si può spostare, a patto di avere le condizioni giuste per ottenere nuovo credito, ci si può spostare da una banca ad un'altra con grande elasticità. Sì, esattamente, è diventato molto più semplice, ma perché era un meccanismo che inizialmente non era stato regolamentato in maniera dettagliata e quindi ci è voluto del tempo, cioè veramente un paio d'anni che sono onestamente troppi per definire tutta la procedura, ma ormai la gran parte delle banche conoscono bene la procedura stessa, gli stessi notai ormai sanno bene come gestirla e soprattutto anche le banche che erano più restie in quanto subivano magari la surroga col cliente che se ne andava e quindi cercavano un po' di ostacolare l'operazione, hanno adesso minore terreno su cui giocare. Anzi, c'è stata addirittura una fase in cui non vedevano l'ora di liberarsi dei clienti magari con mutui piuttosto lunghi e per importi piuttosto elevati. A proposito di durate e di importi, allora raccontaci un po' quello che è successo quest'anno. In questo momento, alla fine dell'anno, alla fine del 2010, quali sono gli importi maggiormente richiesti dalle famiglie che in questo momento si possono permettere comunque di acquistare la casa dei propri sogni e che tipo di durate hanno anche i nostri mutui, i mutui delle famiglie appunto di cui stiamo parlando, tenendo conto che negli ultimi anni si era manifestata in maniera molto forte questa tendenza ad allungare in maniera incredibile le durate dei finanziamenti per l'acquisto della casa. Sì, esatto, questa delle durate è una tendenza che ormai si è consolidata da diversi anni e che devo dire anche durante la crisi non ha riscontrato fondamentali modifiche. Cioè, ormai i tre quarti dei mutui che vengono erogati per durate che vanno dai 20 ai 30 anni e soprattutto i 20 e i 30 sono le due grandi durate che polarizzano molto le richieste e dovendo fare una media complessiva siamo intorno alla durata tra i 22 e i 23 anni. Se pensiamo che poco più di 10 anni fa, 11 anni fa, la durata media di un mutuo era di 10-12 anni, si capisce come si sia modificato il mercato. Questo perché anche gli importi sono cresciuti notevolmente. Sempre 10 anni fa l'importo medio di un mutuo era di poco più di 50.000 euro, i vecchi 100 milioni di lire. E adesso gli importi medi sono addirittura oltre i 130.000 euro, quindi in questo caso si è più che raddoppiato. L'importo medio, dato che purtroppo, l'abbiamo detto più volte anche da questi microfoni, nello stesso arco temporale la dinamica dei redditi medi delle famiglie, come anche i dati di Banca d'Italia di pochi giorni di metà dicembre hanno confermato, non sono cresciuti allo stesso ritmo purtroppo, ma in maniera molto più contenuta e quindi il progressivo allungamento della durata del mutuo è stato necessario per far sì che il peso della rata mensile potesse rimanere gestibile all'interno di un bilancio familiare che appunto aveva un reddito che sì, magari cresceva, ma cresceva in maniera molto più contenuta. Nel 2010 abbiamo visto gli importi ritornare a crescere dopo il leggero calo del 2008-2009 e siamo adesso anche qui ai massimi di sempre. Dicevamo oltre i 130.000 euro, circa 135.000. per una percentuale, anche qui media, di finanziamento rispetto al valore dell'immobile acquistato, quando si tratta di un acquisto, che è di poco superiore al 50%. Mm-hmm. Quindi mediamente il valore dell'immobile oscilla intorno ai 240-250 Questo mila. Anche a ricordare che la crisi che ha riguardato anche l'Italia insieme a tutte le principali economie non ha scalfito più di tanto il mercato immobiliare, quindi il valore del mattone del nostro paese. Ti faccio sentire a questo proposito Roberto che cosa diceva proprio l'indagine della Banca d'Italia che hai citato poco fa a proposito della voce casa nell'ambito della ricchezza delle famiglie italiane. È l'abitazione la voce di maggior ricchezza per le famiglie italiane. Secondo il bollettino diffuso dalla Banca d'Italia, il mattone infatti rappresenta un valore superiore a 4.667 miliardi, poco più della metà del valore complessivo della ricchezza, ossia circa 196.000 euro a famiglia. Tra le attività reali, dopo l'abitazione ci sono gli oggetti di valore, per un valore di circa 122 miliardi. Per le abitazioni, la ricchezza è cresciuta a prezzi correnti tra il 2007 e il 2008 di circa il 2,8%, 127 miliardi, un valore inferiore al tasso medio annuo del periodo 1995-2007, circa il 6,6%, a causa del rallentamento del mercato immobiliare. In termini pro capite, la crescita della ricchezza in abitazioni tra il 2007 e il 2008 è stata inferiore, pari al 2,1%, dato l'aumento della popolazione pari allo 0,7% nello stesso periodo. A prezzi costanti, la variazione della ricchezza in abitazioni rispetto al 2007 è risultata lievemente negativa, pari a meno 0,4% complessivamente, a meno 1,1% in termini pro capite. Resta stabile, alla fine del 2009, il valore del mattone detenuto dalle famiglie italiane, stimato in circa 4.800 miliardi di euro, più 0,4% rispetto all'anno precedente. In media, per famiglia, il valore delle abitazioni è pari a circa 200.000 euro. La ricchezza in abitazioni a prezzi correnti è cresciuta tra la fine del 2008 e la fine del 2009 di circa lo 0,3%, a circa 13 miliardi di euro. Un valore molto inferiore al tasso medio annuo del periodo 95-2008, circa il 6,3%, a causa del rallentamento delle quotazioni sul mercato immobiliare. In termini reali, la variazione della ricchezza in abitazioni rispetto al 2008 è risultata pari a circa lo 0,4%. Insomma, gli italiani sempre affezionati al mattone, anche se in questo momento hanno più difficoltà o perlomeno dal punto di vista bancario c'è più prudenza ad erogare credito per l'acquisto della casa, per le famiglie è sempre in ogni caso l'investimento più importante. Roberto, qualche anno fa il sistema bancario è stato messo sotto accusa, ancora una volta lo ricordo, soprattutto nel momento più acuto della crisi, perché era stato un po' troppo permissivo nei confronti delle famiglie, aveva erogato credito anche per il valore totale dell'abitazione appunto verso cui le famiglie erano interessate. In questo momento la situazione si è più riequilibrata da questo punto di vista. Tu prima ci dicevi appunto che i mutui erogati corrispondono in genere a circa il 50-60% del valore delle abitazioni. Sì, diciamo, quello ovviamente è il valore medio. Purtroppo quando parliamo di grandi fenomeni economici come anche il mercato della casa, le medie inevitabilmente dicono tanto, ma dicono... Quindi c'è ancora chi eroga al 100% del valore? Tuttora ci sono diverse banche... Non perché sia una cosa da criticare, solo per capire. Anzi, proprio per chiarire, tranquillizzare chiunque, che se anche viene proposto un mutuo al 100% non è che c'è dietro, o almeno quando si parla di istituti bancari affidabili e seri, qualche trucco, come invece c'è stato in anni precedenti quando magari qualche intermediario, operatori immobiliari o altri intermediari finanziari giocavano su questi finanziamenti. Edulcorava le perizie. Esatto, ma quando non edulcorava addirittura anche i documenti di reddito, purtroppo. Quindi parliamo in questo caso di vere e proprie truffe, e a volte la stessa banca aveva difficoltà ad accorgersene, perché ovviamente non è che fosse un'industria che, come si è scoperto poi succede ad esempio negli Stati Uniti in alcuni settori, produceva diciamo a raffica questa tipologia di richieste. Venivano infilate, diciamo così, in mezzo a pratiche invece del tutto rispettabili in termini di criteri di finanziamento, di modo che non venissero magari notate, aiutate dal fatto che in quegli anni i prezzi degli immobili crescevano continuamente e di cifre importanti, quindi anche una perizia che sembrava generosa in realtà incuteva minore preoccupazione, perché dopo pochi mesi quel valore veniva quasi raggiunto, comunque ci si avvicinava. Quindi purtroppo da questo punto di vista c'è stato in alcuni casi, che è anche un po' il principio americano, diciamo, esatto, no? Ecco, una minore attenzione. Il buono però è che comunque complessivamente il sistema ha tenuto, proprio perché questi erano casi limitati e quella che era la prudenza, da sempre un po' così considerata un difetto per certi versi, un limite del sistema bancario italiano, si è invece rivelato la sua ancora di salvataggio, perché poi si è visto che nei portafogli delle banche non c'erano grandi quantità di finanziamenti a rischio, ognuno magari ha avuto occasione tramite la crisi di verificare quali potevano essere i vari criteri di maggiore attenzione, quindi ha limitato l'accessibilità al finanziamento da parte di certi intermediari, quindi limitandosi a quelli invece più seri e che potevano garantire una stessa tutela sia per il cliente che per la banca. Ma allo stesso tempo si è anche visto che non ci sono state né bolle immobiliari, quindi né sopravvalutazioni eccessive nel mercato degli immobili, né appunto finanziamenti troppo facili, ed è anche il motivo per il quale, rispetto a tanti altri paesi, i prezzi degli immobili in Italia, rispetto ai massimi che avevamo visto 3-4 anni fa, sono leggermente scesi, ma si è trattato, diciamo, più di un ridimensionamento fisiologico rispetto alla situazione generale di crisi, per cui è vero che le banche in certi casi tuttora sono più prudenti nell'erogare il finanziamento e soprattutto a fare delle perizie più oculate sul valore degli immobili, ma è anche vero che, data la situazione generale di economia ancora incerta, tante famiglie ragionano su tempi più lunghi per effettuare un investimento come quello dell'acquisto di una casa. Anche perché tanto poi il problema lo deve pagare la banca, visto che dopo è costretta a, come dire, sostituire il mutuo, a rinegoziarlo, a sospenderlo in certi casi. Questo è un tema che ripercorreremo nell'ultima parte di Salvadanaio, in questa puntata speciale dedicata un po' a 360 gradi al pianeta mutui. Roberto, nel tuo bollettino, quello che ci hai portato, che si riferisce appunto all'attività che avete intermediato in larga parte di questo anno, ci hai parlato prima degli importi medi, non abbiamo ancora toccato completamente la sfera tassi. Ti chiedo però invece quali sono, come dire, le medie di età e la dislocazione anche geografica dei mutui maggiormente richiesti, altri dati relativamente un po' alla tendenza in corso. Diciamo che anche sui dati demografici, quindi anche di distribuzione geografica, nel tempo non ci sono storicamente grandi cambiamenti, perché di base il mercato della casa e quindi anche del mutuo segue molto quella che è la concentrazione abitativa sul territorio italiano, e quindi inevitabilmente la parte nord del territorio italiano è quella dove si concentra una buona parte della popolazione, e quindi pesa da sola quasi per il 50% delle erogazioni complessive. Questo è un dato che si riscontra infatti in maniera del tutto parallela sia dai dati nostri, che rappresentano comunque il 4% del mercato complessivo, sia proprio dai dati generali di Banca d'Italia sulla distribuzione dei mutui negli anni. E anche per quanto riguarda le categorie anagrafiche, quindi dell'età, inevitabilmente per un prodotto come il mutuo, le categorie che maggiormente si concentrano nella richiesta di mutuo sono quelle che vanno dai 30, 35 fino ai 45 anni, più spostati tra i 35 e i 40. Perché? Perché si tratta di età nelle quali sicuramente si ha una posizione professionale consolidata. Esatto, più consolidata, lo stesso reddito potrebbe essere già salito leggermente. Non si è nella fase iniziale, in cui magari i redditi sono ancora contenuti e anche la forma contrattuale potrebbe essere non definitiva, ma soprattutto è anche un'età nella quale i progetti familiari vengono, come dire, costruiti su un più lungo termine, anche la famiglia magari si allarga e quindi c'è necessità o di un'abitazione più ampia o di un'abitazione stabile rispetto a una situazione di affitto che si è scelta per i primi anni, e quindi in questa fascia di età si concretizza la gran parte degli acquisti. Detto questo, ci sono ovviamente anche tutte le altre fasce, addirittura ci sono settantenni che tuttora acquistano casa. Certo, se hanno del risparmio magari ci aggiungono un piccolo prestito che sicuramente non sarà magari di 150.000 euro. C'è anche da dire che in certi casi la terza età allargata si trova spesso in una situazione in cui, una volta che la casa si svuota perché i figli sono ormai grandi da tempo, sono andati via, magari uno dei due rimane anche vedovo, si trova a volte in una casa troppo grande, e quindi sia per mantenere la casa stessa sia purtroppo anche per le difficoltà, diciamo, economiche che a volte un singolo pensionato, insomma una persona avanti nell'età, può avere anche in termini di assistenza, il vendere una casa più grossa per passare ad una casa su dimensioni più ridotte ma comunque ben abitabili, e allo stesso tempo quindi con un costo inferiore, rappresenta la possibilità di avere una situazione abitativa comunque adeguata e allo stesso tempo avere un avanzo di capitale da parte, un po' di liquidità per far fronte alle proprie necessità. E parlavamo prima dei 35 anni, 40 anni, che sono, come dire, dal punto di vista anagrafico la classe sociale che più diffusamente adesso sta chiedendo il mutuo per la casa, e perché dicevamo è probabile che a quell'età abbia una condizione professionale stabile. Però sappiamo anche come sta andando il mondo del lavoro adesso, e la condizione più diffusa è quella della flessibilità. Qualche anno fa quasi tutte le banche avevano studiato prodotti per i cosiddetti lavoratori atipici. Come sta andando questo segmento di mercato ora, Roberto? Ma al momento c'è onestamente da dire che non sta andando al meglio, perché è uno dei settori dal punto di vista lavorativo e quindi anche di tipologia di cliente sui quali le banche si muovono in maniera più prudente, proprio perché c'è comunque un'incertezza generale dettata anche dalla situazione del momento e proprio anche la precarietà, tra virgolette, di questo tipo di contratto, che a volte ha una durata limitata e non certa per il futuro. Per cui in molti casi, così come anche allora, che pur avendo dei prodotti dedicati c'erano tutta una serie di comunque di minimi limiti e condizioni, minimi d'ingresso, un minimo di anzianità o di ripetitività eccetera, e posto che si trattava comunque di prodotti più costosi rispetto a quelli che erano altrimenti disponibili, tuttora non ci sono normalmente prodotti dedicati e la banca di volta in volta valuta il profilo del richiedente, quindi non c'è una preclusione da questo punto di vista, però è proprio il profilo della persona e va detto, spesso anche il livello di reddito, che tende ad essere inevitabilmente più contenuto, proprio perché spesso è un contratto di inizio attività lavorativa, spesso non è ancora neanche un tempo pieno complessivo, che può essere verticale o orizzontale, cioè o tutti i giorni o solo un tot di ore al giorno, e però quindi porta a un reddito più limitato, e questo è alla fine, a prescindere anche dal tipo di contratto, uno dei limiti principali nell'accesso al mutuo, cioè il fatto che comunque la banca, nel valutare se finanziare o meno la richiesta di mutuo, cioè se concedere o meno il mutuo, valuta quello che è il peso della rata del mutuo richiesto, quindi la rata mensile, rispetto al reddito mensile. Questo livello di equilibrio è indicativamente intorno a un terzo, ma in caso di redditi bassi potrebbe essere anche un pochino più contenuto, intorno al 25% o 30% massimo. E quindi, immaginiamo chi porta a casa 1.000-1.200 euro, esatto, che tipo di accesso ha? Il problema è che in molti casi questa tipologia di lavoratori troverebbe anche istituti disposti a finanziare. Però devi limitarsi per 30 anni. No, ma poi soprattutto a volte, anche con finanziamento di lungo termine, l'importo è troppo esiguo, proprio perché la rata stessa che potrebbe essere concessa è molto contenuta, per poter comprare l'immobile che è di interesse. Ed è questo il motivo per il quale spesso si ricorre all'inserimento o di un cointestatario, che può essere anche lui magari a tempo determinato, ma che con una somma di redditi porti anche a una rata di mutuo più elevata, oppure il cosiddetto garante, che sia il genitore, il parente o chiunque altro, che ancora una volta permette alla fine di ottenere quell'importo di mutuo più elevato, che permette, scusate il gioco di parole, di comprare l'immobile senza dover attendere ulteriormente. Peraltro, altro aspetto enfatizzato dalla ancora annoverata indagine di Banca d'Italia di qualche settimana fa, per fortuna che c'è la rete di protezione familiare, però le generazioni future purtroppo non ce l'avranno. Tra l'altro capisco anche che tutto questo meccanismo che abbiamo spiegato per poter avere credito per l'acquisto della casa se si è in una condizione di lavoro non fisso e quindi atipico, come lo definivamo qualche anno fa, può essere sicuramente un meccanismo molto frustrante, ma è anche vero che comunque tende anche a proteggere la situazione di difficoltà future, non solo la banca ma anche lo stesso contraente, per cui certi standard di sicurezza sono irrinunciabili per entrambe le parti. Io direi che adesso possiamo già andare alla nostra prima pausa. Vi stiamo proponendo un salvadanaio speciale, come le puntate che vi hanno fatto, vi stanno facendo compagnia in questi giorni. La puntata di questo giovedì 30 dicembre dedicata ai mutui a 360 gradi. Ci fermiamo solo per qualche istante, a tra poco. Eccoci ritrovati insieme oggi a Salvadanaio, puntata speciale. Lo ricordo ancora, puntate speciali in queste giornate a cavallo tra Natale e Capodanno, in cui approfondiamo i temi che vi sono più cari. Abbiamo parlato nei giorni scorsi di pianificazione finanziaria familiare, abbiamo parlato un po' di come sono andati i consumi quest'anno, abbiamo parlato anche di investire in borsa, come si fa il trading online per esempio, tanti aspetti che in questi ultimi mesi per esempio ci hanno chiesto di approfondire molti ascoltatori, che qualche volta anche per dare più spazio alla cronaca contingente non riusciamo a fare, allora abbiamo approfittato di queste puntate. Oggi un altro tema carissimo a tutti gli ascoltatori affezionati di Salvadanaio di Radio 24, il tema mutui, un tema che è molto interessante perché è oggetto di costanti novità che arrivano e per far fronte alle difficoltà finanziarie in cui molte famiglie si sono trovate, ma anche perché le condizioni di mercato cambiano. È sempre stato questo un mercato molto vivace, quello dei mutui, e chi ci aiuta stamattina? Roberto Anedda, responsabile marketing di Mutui Online. E allora, prima abbiamo l'ultima parte, diciamo, della trasmissione, nella prima parte, scusate il gioco di parole, l'abbiamo dedicata appunto alle condizioni dei lavoratori atipici, quelli che non hanno un rapporto di lavoro, e adesso purtroppo questa fascia si va sempre di più ampliando a tempo indeterminato, e quindi così stavamo cercando un po' di valutare quali sono anche un po' i passi che possono fare coloro che si trovano in questa condizione per avere ovviamente l'opportunità anche di acquistare la casa dei propri sogni. Però in realtà poi i problemi non riguardano solo queste persone, c'è anche chi un mutuo magari qualche anno fa lo ha sottoscritto, adesso si trova nella condizione di rinegoziarlo perché non riesce più a star dietro alla rata. Ma vorrei farvi sentire, ancora prima di parlare delle iniziative di sistema per aiutare queste famiglie, lo faremo nell'ultima parte di Salvadanaio, ritorneremo sul piano famiglie e il fondo di solidarietà. Oggi vi faccio sentire altri dati, su quelle che sono state le tendenze nei primi 9 mesi di quest'anno sul settore del credito al consumo in termini generali, perché è un settore che sta soffrendo, non conosce più i fasti degli ultimi 3 o 4 anni o 5 o 6 anni appunto nel nostro paese, e invece paradossalmente i mutui stanno dando segnali di risveglio, secondo questo rapporto CRIF Assofin e Prometeia. Sentiamo. Mm-hmm. Invertendo un trend in contrazione dal 2007, nel primo semestre 2010 sono tornate a crescere le erogazioni di mutui immobiliari alle famiglie, che hanno privilegiato l'acquisto di abitazioni come forma alternativa di investimento, spinte dai bassi tassi di interesse. Un percorso di ripresa che è proseguito nel corso del terzo trimestre dell'anno, portando l'incremento a più 14,6% nei primi 9 mesi del 2010 rispetto allo stesso periodo del 2009. Dall'analisi dell'osservatorio Assofin CRIF Prometeia risulta inoltre che nel primo semestre 2010 si è riavviata, seppur lentamente, la ricomposizione di mutui verso importi e durate contrattuali maggiori, con le classi principali che risultano essere rispettivamente quella relativa ad importi compresi tra 101 e 200 mila euro e quella di durata superiore a 26 anni, dovuta in buona misura alla ripresa dei mutui per acquisto, che generalmente hanno valori e durate maggiori rispetto agli altri mutui. I dati relativi al primo semestre dell'anno hanno evidenziato il ritorno della preferenza da parte delle famiglie per il tasso variabile. I mutui indicizzati, infatti, arrivano a sfiorare i 3/4 delle erogazioni, mentre nel 2009 rappresentavano circa la metà del totale. Prosegue infine il ritorno verso le erogazioni dirette di mutui tramite gli sportelli bancari tradizionali, che rivolgendosi ad una clientela con rischiosità più contenuta, veicolano il 72% dei flussi erogati nei primi 9 mesi del 2010. Allora, Roberto, Anedda, il vostro osservatorio invece, quello di Mutui Online, racconta qualcosa di diverso. È chiaro che il vostro è un osservatorio che analizza quello che intermediate voi, il rapporto Assofin, CRIF, Prometeia, in qualche maniera ha una visione più generale, più di sistema. Però per quello che vi riguarda invece il tema prestiti non ha proprio questa sofferenza. No, diciamo che il dato complessivo di Assofin CRIF citato adesso riguarda l'intero settore del credito al consumo, che è composto a sua volta, senza tediare eccessivamente gli ascoltatori, da vari sottosegmenti. Quindi ci sono i prestiti personali diretti, cioè quelli che i clienti richiedono direttamente personali agli istituti o tramite un intermediario, i cosiddetti crediti prestiti finalizzati, cioè quelli che io chiedo per l'acquisto di un'auto, per l'acquisto di un mobile, di un pezzo di arredamento al rivenditore. Che sono quelli che sono scesi di più. Che sono quelli, esatto, che sono scesi di più, che tra l'altro scendono ormai da diversi anni, addirittura da prima della crisi, e poi ci sono anche tutte le carte di credito e la cessione del quinto dello stipendio. Questo settore complessivamente negli ultimi anni ha risentito parecchio della crisi, e come dicevamo in particolare la componente del finalizzato, quella che è collegata ai concessionari, è quella che da più anni sta perdendo di più, ed era la componente principale, e considerando che tra i concessionari i primi sono quelli dell'auto, e sappiamo il mercato dell'auto in questi mesi, esatto, senza più incentivi è perso, esatto, che numeri sta segnando. Questo fa capire perché complessivamente il credito al consumo stia scendendo. Allo stesso tempo noi, ad esempio, che oltre a Mutui Online abbiamo l'attività di prestiti online, quindi la stessa attività di broker ma sui prestiti diretti, notiamo proprio nella seconda parte dell'anno del 2010 una prima ripresa di richieste rispetto a quello che era stata un po' la prudenza del 2009, della prima parte del 2010, e guarda caso proprio anche sull'acquisto dell'auto o altra voce particolarmente richiesta, ristrutturazione della casa. Perché effettivamente sono le esigenze che saltuariamente prima o poi parecchie famiglie si trovano ad affrontare, soprattutto sono due delle voci di spesa principali, di voce saltuaria, non tanto l'acquisto di un televisore o di un altro elettrodomestico. Necessitando di un capitale più elevato, è più facile che una famiglia cerchi anche una soluzione di finanziamento. E obiettivamente anche nel caso del credito al consumo ci sono condizioni molto appetibili, perché i migliori tassi per queste finalità partono da poco più del 5%, quindi considerando che poi sono tassi fissi, certo, permettono sicuramente anche a chi ha magari dei soldi da parte, piuttosto che impegnarli tutti subito in una spesa di questo tipo, di pagare con una periodicità mensile un po' per volta, con un costo tutto sommato contenuto e col vantaggio di tenersi intanto i soldi da parte per eventuali ulteriori spese, incertezze o puro fondo di prudenza. Quindi c'è sicuramente ancora una sofferenza generale nel credito al consumo che si può vedere nel 2010, l'abbiamo vista anche noi nella prima parte dell'anno. Cominciano a vedersi dei segnali, qualche segnale diverso, ripeto, in alcune componenti del mercato, perché altre, come anche le carte di credito, tuttora soffrono abbastanza rispetto anche ai volumi che avevano raggiunto prima, ma nel momento in cui si contraggono i consumi, i redditi, l'incertezza economica si mantiene, è ovvio che il credito al consumo, che non a caso si chiama al consumo, risente in maniera più diretta di questa situazione. Ovviamente. Roberto, parliamo molto spesso con te e con tanti altri ospiti dei costi dei mutui, quindi facciamo sempre un grande ABC della differenza fra il mutuo a tasso fisso e al tasso variabile. Un po' meno frequentemente invece parliamo proprio del costo dei prestiti che hai citato tu in questo momento. Quali sono le durate standard di un prestito finalizzato piuttosto che di un prestito personale, quello per la ristrutturazione della casa, quello per l'acquisto appunto dell'auto? Che durate medie chiedono le famiglie e quanto costano questi prestiti, questi finanziamenti? Sì, diciamo innanzitutto che i prestiti ovviamente rispetto ai mutui hanno delle durate che sono molto inferiori. Normalmente un istituto non concede prestiti diretti oltre i 10 anni di durata, ma questo anche per il fatto che si tratta di importi che al massimo possono arrivare a 40-50 mila euro, quindi è ovvio che diluirli in un arco di tempo troppo lungo risulterebbe anche forse eccessivamente oneroso e allo stesso tempo anche più rischioso per l'istituto, quindi comunque ci si limita a durate inferiori e quindi poi la durata media per questi finanziamenti oscilla tra i 4 e i 6 anni, a seconda anche qui delle finalità per le quali vengono richiesti. Per le finalità principali come l'auto, la ristrutturazione della casa, che sono quelle che inevitabilmente hanno degli importi medi un pochino più elevati, ovviamente la durata media tende a essere un po' più lunga rispetto a chi chiede. Quello per la ristrutturazione della casa è pure un finalizzato? Tra l'altro questo perché una questione di terminologia, adesso una curiosità mia. Esatto, così precisiamo definitivamente. I finalizzati sono unicamente i prestiti che vengono, venduti o piazzati al cliente attraverso il rivenditore di un bene che il cliente sta comprando. E quindi facciamo l'ipotesi dell'auto oppure del divano. Quindi io vado a comprare la mia auto, il televisore e il divano, il rivenditore, oltre a vendermi i diversi prodotti che ha a disposizione, mi propone anche il finanziamento. Quindi lui fa da intermediario, ma è un intermediario tecnico, commerciale, anche per il finanziamento per l'acquisto di quel bene. Se io invece sono interessato all'acquisto dell'auto, ma voglio trovarmi di mio, senza intermediari, almeno come venditori commerciali, un finanziamento, ricorro al prestito diretto, che si chiama diretto proprio per questo, perché non ho un rapporto che passa tramite il rivenditore di un altro bene. Parlo direttamente o con l'istituto che eventualmente mi erogherà il prestito, o al limite con un intermediario, ma un intermediario finanziario, cioè come lo stesso prestito online, un broker o un altro intermediario che propone direttamente finanziamenti, ma che non vende altri prodotti, quindi è settoriale. E quindi il finalizzato è unicamente proposto da chi vende in realtà altri beni e in aggiunta eventualmente mette il finanziamento. Quindi nel caso della ristrutturazione della casa in genere si tratta di prestiti diretti, ci possono essere poi imprese edilizie, non mi veniva il termine, che di loro possono avere delle convenzioni con una banca o altro, certo. E quindi eventualmente offrono anche questo servizio, però nella gran parte dei casi si tratta proprio di prestiti diretti che vengono richiesti dalla famiglia, dal consumatore finale all'istituto, magari cercando diverse alternative per trovare poi la più conveniente. Certo, capitolo oneri l'abbiamo esaurito? Forse quanto costano questi prestiti? Sì, diciamo il tasso è sicuramente la spesa principale e anche qui bisogna stare attenti e valutare adeguatamente, perché è vero che, come dicevo, le migliori offerte, soprattutto sull'online, obiettivamente partono dal 5%, ma è anche vero che se si vanno a vedere i tassi medi applicati sul credito al consumo e sui prestiti personali registrati dalla stessa Banca d'Italia, si parla di tassi molto più elevati, addirittura del 10, 12, 13%, perché c'è anche dentro una componente di richieste per altre finalità, come la liquidità, il consolidamento debiti, che sicuramente sono più rischiose per l'istituto e quindi costano di più, ma è anche vero che il credito al consumo è un mercato molto più variegato in termini di offerte, dove ci sono differenze molto più forti tra un prodotto ed un altro, tra un istituto ed un altro, anche tra un intermediario all'altro. E quindi qui c'è veramente una disparità di costi che può essere molto rilevante. Il tasso, tra l'altro, cresce particolarmente se si chiedono importi molto piccoli, cioè di poche migliaia di euro, che sembra un controsenso, ma nella realtà proprio le richieste di poche migliaia di euro sono viste con maggiore timore dagli istituti, perché uno che chiede addirittura 2-3 mila euro, addirittura a volte 1.000-1.500 euro di finanziamento viene visto con più sospetto, perché questo chiede addirittura una rateizzazione su un importo così piccolo, potrebbe però essere che ha dei problemi nascosti e quindi ci tuteliamo chiedendo un interesse molto più elevato. Quindi diciamo che in generale il consiglio è quello di cercare di non chiedere importi troppo piccoli in generale, finché si può. Certo, perché forse è il primo segnale che non è il caso di fare un certo tipo di spese. Però, infatti, insomma, poi nelle tra l'altro, Roberto, ci manca adesso un minuto di tempo prima di chiudere questa seconda parte di Salvadanaio. Vogliamo ricordare molto rapidamente, perché altrimenti dovremmo approfondire con tutta un'altra puntata, che questo settore, il credito al consumo, quest'anno è stato interessato anche da una riforma radicale del settore, più o meno radicale, riguarda in maniera radicale soprattutto una parte, quella dell'intermediazione di cui parlavi prima. Sì, esatto. Tra l'altro è una riforma tuttora in corso, perché a metà gennaio, quindi nel 2011, verranno pubblicate tutta una serie di direttive, di disposizioni attuative da parte della Banca d'Italia, che dovranno, diciamo, nei tre mesi successivi, quando entro metà aprile, entrare in vigore, ma entro la fine dell'anno prossimo, quindi entro il 2011, si costituirà anche il cosiddetto organismo di, non di vigilanza, ma comunque di regolamentazione proprio del settore degli intermediari, che porterà ulteriori controlli e, si spera, tutela nei confronti dei consumatori. È sicuramente un notevole passo avanti, ma effettivamente c'è ancora parecchio lavoro da fare. E infatti, e tra gli aspetti più importanti che vogliamo ricordare c'è proprio, come dire, tutta la nuova disciplina che riguarda la trasparenza, l'attività di finanziamento dei consumatori, la pubblicità dei prodotti, appunto, di credito al consumo, il diritto di recesso, vengono rafforzate le tutele e i diritti dei consumatori. Quindi, insomma, un provvedimento che, di cui abbiamo parlato tanto a partire dalla scorsa estate, quando in un consiglio dei ministri della fine di luglio è stato approvato. Adesso lo abbiamo in gazzetta, appunto, ufficiale da qualche mese, e aspettiamo i provvedimenti attuativi della Banca d'Italia. Però monitoreremo attentamente anche sulle modalità con cui le società si adegueranno ai nuovi standard. Ci rifermiamo ancora e poi tra poco l'ultima parte di Salvadanaio con mutui, a questo punto prestiti a 360 gradi, con Roberto Anedda. Tra poco. Eccoci di nuovo insieme per l'ultima parte di Salvadanaio, giovedì 30 dicembre. Oggi una puntata speciale dedicata al pianeta mutui, con Roberto Anedda, direttore marketing di Mutui Online. Abbiamo veramente parlato di tutte le sfaccettature possibili di questo settore. Abbiamo fatto anche una deviazione nell'ambito del credito al consumo in termini più generali. Abbiamo parlato dello stato di salute dei prestiti e dei finanziamenti di minor importo rispetto al mutuo. Adesso è tempo di parlare invece, come promesso all'inizio della trasmissione, delle famiglie che si sono trovate e ancora si trovano in difficoltà con il rispetto di questo impegno finanziario di ogni mese. Per queste famiglie, come ricorderete, negli ultimi mesi sono arrivate molte iniziative di sistema. E una è stata la moratoria, il piano famiglie, che è stato sostanzialmente un'iniziativa frutto di un accordo fra l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, e le Associazioni dei Consumatori. E poi c'è stata un'altra importante iniziativa, che invece è nata molto più di recente, anche se per la verità ha una genesi più vecchia, è il fondo di solidarietà, sempre in questo caso per le famiglie che non riescono a rispettare la rata del mutuo. Le riassumiamo e poi da questi elementi partiremo per farvi un piccolo ABC su a che cosa bisogna fare attenzione quando si accede ad un mutuo, quando si chiede di accendere un mutuo, appunto, alla propria banca, a come funziona anche il meccanismo dei tassi di interesse, adesso quali sono le offerte più convenienti. La perdita del posto di lavoro, la malattia di un familiare, il sopraggiungere di spese straordinarie per la manutenzione. Sono tanti gli imprevisti che possono mettere una famiglia in seria difficoltà nel sostenere il mutuo per la propria abitazione. Non ultima, l'eventualità di un aumento inatteso e gravoso delle rate. E così è stato per molti mutuatari, costretti nel corso dell'anno a rivolgersi ad alcune delle iniziative messe a punto proprio per le famiglie in difficoltà, con le rate da pagare. Dalla moratoria per i mutui prevista dal Piano Famiglie al più recente Fondo di Solidarietà. Proprio qualche settimana fa le banche italiane si sono impegnate a estendere di 6 mesi il piano famiglia e dunque la moratoria per i mutui in scadenza originariamente a fine gennaio, che ha permesso in un anno di sospendere le rate di moltissimi finanziamenti per la casa. Circa 31.000 in base ai dati di fine settembre, per un controvalore complessivo di 4 miliardi di euro. Il piano prevede lo stop al pagamento per un massimo di 12 mesi, nel caso in cui i mutuatari abbiano subito eventi negativi, come la morte di un familiare, la perdita dell'occupazione o l'ingresso in cassa integrazione. Più recente invece la messa in atto del Fondo di Solidarietà per i Mutui, nonostante fosse in cantiere da 3 anni, che ha preso il via lo scorso 15 novembre. A partire da questa data, chi è in possesso di determinati requisiti può richiedere alla propria banca la sospensione dei pagamenti fino a 18 mesi. Per ottenere lo stop delle rate, il profilo del richiedente, oltre naturalmente ad attestare una criticità della situazione familiare che rientra tra quelle previste, deve rispettare determinati requisiti: reddito entro i 30.000 euro, ammontare complessivo del finanziamento di massimo 250.000 euro e un mutuo in ammortamento da almeno un anno. Roberto, allora ricordiamo intanto che se si vuole chiedere una surroga del mutuo ci si può rivolgere a Mutui Online. Se si vuole invece richiedere la sospensione o l'adesione al fondo di solidarietà bisogna rivolgersi direttamente in banca. Quindi voi in questo non potete aiutare. No, purtroppo in questo caso no. Allora, che cosa ci suggerisce questa scheda in cui abbiamo raccontato tutte quelle iniziative? Sono state due molto importanti quest'anno, iniziative di sistema appunto che hanno avuto l'obiettivo di aiutare le famiglie che non si sono trovate più nelle condizioni di poter onorare questo impegno e che intanto non va sottovalutato. Sì, acquistiamo la casa dei nostri sogni, siamo sempre molto attenti ovviamente a curiosare fra le caratteristiche dell'edificio nel quale andremo ad abitare, molto meno spesso la nostra prima priorità è quella di verificare se saremo in grado per un lungo periodo di tempo di rispettare la rata. È chiaro che nessuno pensa che potrà perdere il posto di lavoro, che potranno sopraggiungere delle disgrazie a volte che cambiano radicalmente il menage familiare, e però un po' di attenzione su questo invece, Roberto, va fatta. No, sicuramente l'acquisto della casa e il finanziamento del mutuo è un investimento di lungo termine, parlavamo di durate medie di 20 a 30 anni e quindi onestamente è difficile farsi una pianificazione su una durata così lunga, perché non si sa quello che può succedere, ma proprio perché una durata così lunga possono effettivamente capitare anche situazioni alquanto complesse, sia dal punto di vista personale, familiare che anche lavorativo. Fortunatamente intervengono anche dal punto di vista istituzionale, insomma, una serie di soluzioni o comunque opportunità per alleviare queste difficoltà, che purtroppo non è detto che siano sufficienti, perché la diffusione di questi problemi può essere anche maggiore, o non riuscire anche con questi interventi a coprire tutti i casi possibili. Quindi in primis occorre sempre, insomma, fare i passi molto ben posati, non farsi prendere dall'entusiasmo del questo è il momento buono in cui riesco a comprare casa e tirare, diciamo, come si suol dire, il mutuo, la rata al massimo che ci si sente in tutta fiducia e onestà fiduciosi di poter pagare, soprattutto se ci si affida magari a dei tassi che possono variare nel tempo. Ad esempio in quest'ultimo anno e mezzo per una buona parte d'anno ha avuto la maggior scelta, lo dicevano anche i vostri servizi precedenti, il tasso variabile, proprio perché aveva dei livelli di assoluta convenienza storicamente improponibili, addirittura di poco superiore all'1%, però è ovvio che nel lungo termine, quindi questi 20 o 30 anni di mutuo, le cose possono cambiare anche notevolmente, anche se non è detto che poi i mutui debbano costare stabilmente di più, però potranno verificarsi anche anni in cui rispetto ai minimi di adesso le rate potrebbero essere molto più elevate, quindi bisogna essere preparati anche a far fronte a quegli aumenti. Purtroppo nei momenti in cui a quell'aumento eventuale dovesse, come dire, corrispondere anche a una situazione personale o lavorativa difficile, è ovvio che la situazione si complica parecchio e quindi in alcuni casi ci si può trovare addirittura nella impossibilità, per quanto temporanea, di rimborsare il mutuo. È sempre una cosa che vale la pena valutare, e da questo punto di vista c'è da dire che si potrebbe spezzare una lancia anche su una valutazione di sottoscrizione di polizze assicurative da questo punto di vista, che giustamente per molti versi sono criticate perché sono sempre una fonte di costi aggiuntivi sono che costi, spesso sì. Le banche cercano di piazzare. Non c'è una grande cultura da questo punto di vista in maniera commerciale, paese, sì. E che sono obiettivamente molto costose, però in molti casi, soprattutto come situazioni complicate dal punto di vista economico come quelle di questi anni, potrebbero mettere al sicuro tante risolvono famiglie. Risolvono a volte delle situazioni. Esatto. Anche perché anche gli interventi che citavamo poc'anzi sono comunque degli interventi di sospensione del pagamento del mutuo, quindi non è che ho qualcuno che mi paga il mutuo per sempre o mi toglie il quello problema. È un impegno che dopo un anno mi dà torna, un respiro dopo un anno, di un anno e mezzo, ma poi la situazione è di nuovo sulle mie spalle, devo comunque pensare nel lungo termine a come risolvere il problema mutuo e come poter garantire il rimborso. Da questo punto di vista è anche vero che le banche in questi anni si sono dimostrate molto, direi, indulgenti o comunque concilianti con i clienti, sono sempre andate incontro anche di propria iniziativa, proponendo esse stesse delle riscalettature. In alcuni casi, però, è ovvio che sia una situazione. Sono tutte operazioni onerose nel lungo termine. Roberto, esatto. Andiamo alle offerte più convenienti, più vantaggiose dal punto di vista economico, con il consueto profilo proposto da Mutui Online. Un ragazzo di 35 anni che vuole acquistare un immobile che ne vale 200, che vale 200.000 euro, e deve prendere un finanziamento da 100.000 euro. Quanto costa il variabile? Quanto costa il fisso? Facciamo un esempio con una bella rata. Sì, sì, sì, perfetto. E allora, mandiamo di traverso il 31 gennaio a tutti quelli che ci ascoltano. No, assolutamente. Anzi, diciamo che tuttora i tassi sono comunque molto contenuti, per cui i variabili sono i più bassi in assoluto. Mm-mm. E quindi partono dal 2%, 2-10%, il che vuol dire per un mutuo da 100.000 euro una rata che ovviamente cambia, come dicevamo anche all'inizio della trasmissione, a seconda della durata, ma per fare un esempio, una durata breve di 10 anni comporterebbe una rata di poco più di 900 euro, a 20 anni si scende addirittura a 500, quindi viene già quasi dimezzata, e a 30 anni diventa di meno di 400 euro, quindi qui si capisce il perché l'allungamento della durata permette di ottenere o finanziamenti più elevati oppure una rata più sostenibile rispetto al proprio reddito. Sul fisso abbiamo avuto i minimi assoluti del mercato tra ottobre e novembre, con i migliori fissi scesi addirittura al 4%, nell'ultima parte dell'anno, quindi soprattutto in dicembre, in questi ormai quasi mese completo, il costo del denaro di lungo termine ha ricominciato un po' a risalire, riportandosi verso il 4, quindi trascinando di nuovo verso l'alto anche i fissi, che adesso nelle migliori condizioni vengono offerti intorno al 4,40-4,50%, che comunque storicamente è un tasso di assoluto rispetto in termini di convenienza, considerando il fatto che poi è garantito che non cambi più, quindi dà una bella sicurezza, però sicuramente rispetto al minimo del 4% e a dei variabili che sono ancora molto bassi, potrebbero lasciare incerti molti sulla, certo, sulla scelta. La terza opzione, che ha avuto il molto successo, famoso cap, esatto, tra il 2009 e il 2010, è variabile con il cap, cioè il cap è un livello massimo garantito oltre il quale, in qualunque momento della durata del mutuo, il tasso non potrà salire, anche se l'incremento del costo del denaro dovesse teoricamente far aumentare il calcolo del tasso finale anche oltre quella soglia, quindi una soglia di garanzia, e so che più di quello non mi verrà mai applicato come tasso. Queste soglie oscillano al momento nelle migliori condizioni tra il 5,10, 5,20 fino al 5,50%, che di per sé è anch'esso un livello del tutto rispettabile, però ovviamente si confronta da un lato con i fissi che dicevamo, certo, dal 2 al 4,5, 4,5 con il variabile 2, al 2, in più si tratta di variabili che sono un po' più costosi, quindi però, diciamo, hanno un che, po' insomma, perso di appeal. Ben oltre il 5 ci sono arrivati nel 2008, per cui ricordiamoci anche questo, esatto, recentissimo passato che ha lasciato molte bruciature addosso a molte famiglie. Roberto, ci manca un minuto e mezzo di tempo, diamo qualche ultima raccomandazione a chi sta adesso valutando l'idea di acquistare la casa dei propri sogni. Allora, c'è una raccomandazione che con molti tuoi colleghi sicuramente te la ricorderai, appunto abbiamo dato tante volte, ancor prima di scegliere la casa andiamo a fare una chiacchierata con il direttore, cerchiamo di capire quanto, a quanto credito avremmo diritto, in modo tale che abbiamo un budget di partenza e da quello forse potremmo valutare l'immobile che ci possiamo permettere. Che sì, ne dici? No, lanciamo quest'ultima provocazione. No, sono completamente d'accordo, infatti devo dire che una crescente parte anche della clientela che si rivolge a noi ci contatta ancor prima di aver individuato magari l'immobile effettivo da acquistare, per avere una prima consulenza. È sempre tutto gratuito, fortunatamente, quindi non ci sono neanche problematiche di costo, ma proprio per capire rispetto alla propria situazione quali potrebbero essere le risposte della banca, anche perché poi possono cambiare da una banca all'altra. Noi lavoriamo con 40 banche diverse e obiettivamente queste 40 banche hanno ognuna delle proprie regole, e quindi valutare preventivamente, come dicevi giustamente tu adesso, quali potrebbero essere le alternative meglio percorribili è certamente consigliabile. www.mutuionline.it, non ricordo quasi mai il sito della vostra società, però insomma è anche abbastanza semplice. Roberto, grazie di tutto, buon anno naturalmente. Altrettanto, ci un augurio a tutti gli ascoltatori. Immagino verso la fine di gennaio per fare un primo punto dell'anno, per vedere un po' quando come si è aperto, volentieri, sotto quale auspicio si è aperto l'anno dei mutui, il 2011 dei mutui. Grazie a tutti, grazie a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Filippo Aureggi in assistenza tecnica, da Deborah Rosciani, buona giornata domani.